Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non mi fate distrarre, è già passato un'auto. Sperate forse di fermarli? Certo, si fermerà. Basta sapere il modo di segnalare. Il segreto è nel dito. Se fate così, sbagliate. Siete rovinata. Povera me. Il dito rivela la psicologia del viandante. Ecco, un dito che sa il fatto suo, eh. Movimento breve, disinvolto, significa che avete denaro e che potete pagare la benzina. Ecco. Pratico. Ecco, dito cordiale, con un sorriso amichevole, vuol dire che sapete delle storielle piccanti. Ma ce n'è un altro. Ecco, dito implorante che confida sul buon cuore dell'autista. Uno sguardo pietoso, appassionato. Commovente. È utile avere anche... Questo è un film del 34. Accadde una notte. Uno spiega alla bella ragazza la teoria del dito d'autostop. Da come metti il dito te lo dà... Già dai un segnale a chi dovrebbe raccoglierti. In realtà poi lei mostra la coscia e fa fermare immediatamente l'automobile, perché la teoria del dito probabilmente vale per l'autostoppista sfigato. L'autostoppista sfigato è colui che fa l'autostop per bisogno, per necessità, per micragna, perché non ha altra maniera per viaggiare, o semplicemente perché, come era di voga negli anni passati, perché è una scelta di vita, ci si sente liberi e si viaggia giocando sulla possibilità di fare nuove amicizie, di viaggiare spendendo pochissimo, di conoscere altre persone, o semplicemente perché è uno stile di vita anticonformista. La nostra generazione ha fatto l'autostop. Io ho fatto le vacanze massacro lungo tutta Europa facendo l'autostop con i miei amici. Ho un'infinità di storie d'autostop da raccontare e questa mattina vorrei che mi raccontassero le loro anche le persone che mi stanno ascoltando. Soltanto le generazioni più attempate hanno fatto autostop, hanno fermato automobili, hanno atteso ore e ore, se non giornate intere, lungo le autostrade, nei luoghi più affocati e assolati, senza possibilità di lavarsi, con pochissimi generi di sussistenza, o dovendo intraprendere schermaglie di difesa se sono ragazze, con gli autostoppisti, cioè con i conduttori che montano autostoppisti, molte volte attirati alla possibilità di avere magari un'avventura, di approfittarsi di loro. Non so oggi esattamente quale sia il livello di autostop. Non vedo più persone fare autostop per strada. Non vedo, probabilmente nella civilizzazione digitale ci sono tante possibilità di condividere automobili, condividere viaggi, condividere mezzi di trasporto. Non è più possibile condividere un viaggio facendo l'autostop. O forse sì. Avete storie di autostop passate, presenti o future? State preparandovi a partire con l'autostop? Beh, questo vorremmo saperlo questa mattina. 800 24 00 24. Breaking news. Un aggiornamento dalla redazione che arriva dalla Puglia. Due treni si sono scontrati sulla linea ferroviaria tra Corato e Andria, siamo poco a nord di Bari. Ci sarebbero decine di feriti secondo i soccorritori e secondo le informazioni che sta diffondendo in questi minuti uno dei quotidiani locali, il Gazzetta del Mezzogiorno, ci sarebbero 4 vittime. Queste le notizie che abbiamo al momento, naturalmente altri aggiornamenti appena ne avremo. Melog. Cronache meridiane. In questo modo non va. Non capiscono niente quegli autisti. Già, non sono psicologi. Beh, volete che provi io? Voi? Mi fate ridere. Oh, signor Spaccone, lasciate fare a me. Anch'io, sapete, ho il mio metodo. Avete un metodo? Metodo brevettato. Questo è l'autostop con lo stratagemma della coscia. Certo, una trasmissione deve avere leggerezza. La leggerezza in parte naturalmente inquinata dalla pessima notizia che abbiamo appena sentito, la breaking news dei due treni che si sono scontrati in Puglia in attesa di avere notizie più certe. Comunque andiamo avanti. La nostra era una riflessione basata soprattutto su ricordi del passato. Questa era la stagione in cui gli studenti, finita la scuola o finiti gli esami, cominciavano a organizzare i viaggi. I viaggi non si facevano prenotandoli attraverso internet, trovando mesi prima le occasioni migliori. Erano proibitivi i prezzi per un medio squattrinato studente. Quindi la soluzione era: partiamo con l'autostop. Cioè, dire che l'autostop lo faccia solo una certa categoria di esseri umani, naturalmente i ragazzi di brava famiglia mai avrebbero accettato, ma i loro genitori soprattutto mai avrebbero accettato che i loro pargoli andassero ramenghi per le strade del mondo con il dito protreso, soprattutto le ragazze. Veniva considerata una sorta di attività vicina al darsi agli sconosciuti fare l'autostop. Di solito si partiva in coppia, noi partivamo sempre maschi, prendevamo amiche talmente esuberanti e sconsiderate di seguirci nell'avventura dell'autostop. Partivamo come se fosse un'avventura, con vecchi zaini militari, con attrezzature del tutto carenti, per nulla adatte a sostenere le nostre settimane all'addiaccio, perché la maggior parte del tempo si passava all'addiaccio. Ricordo una notte che ho dormito nei giardinetti alla Gare de Lyon a Parigi, insieme ai miei amici, insieme a quelli che allora erano gli ambulanti, i clochard, gli immigrati, già da allora, ma erano negli anni 70. Mi sembrava una cosa stranissima vedere persone di tutte le etnie dormire nei giardinetti. Perché? Perché giravamo con l'autostop. Avevamo dei budget limitatissimi, 50.000 lire per stare via 15 giorni, immaginate cosa mai potevamo fare, capito? Quindi facciamo l'autostop. Mariella, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare che anch'io negli anni 70-80 ero giovane, gli spostamenti in autostop, ma anche per andare a Roma o... Ma da dove? Da dove? In compagnia. Quanti chilometri facciamo? Da Milano, allora. Roma-Milano in autostop. Beh, una bella avventura Roma-Milano in autostop. No, ma sono andata anche in Danimarca, anche in paesi europei. Ecco, com'era composto l'equipaggio, il suo equipaggio, com'era composto? Di solito, si sceglieva una persona sola che guidava. Ma voi in quanti eravate, gli autostoppisti? Con un'amica, no. A due amiche sole? Però io l'ho fatto. E le mamme vi mandavano, Mariella, vi mandavano le mamme? Non lo sapeva la mamma. E come dicevate che andavate? Con i mezzi, forse mia madre non si preoccupava più di tanto. Comunque non ho mai avuto problemi, anzi trovavamo anche chi ci offriva il pranzo al ristorante. Grazie, uno tentava la seduzione attraverso fame, mi prendeva per fame. Non chiaro. C'era assolutamente, mi ricordo una volta in Europa un diplomatico dell'Est, gentilissimo, ma ho avuto solo un'esperienza di uno stupidotto che ha tentato appena fuori Milano, insomma. Io e una mia collega dovevamo rientrare, ma io ho provato a farlo anche sola in città, dando sempre spiegazioni perché facevo l'autostop, vere o false. In realtà io volevo arrivare a casa in fretta. Quindi lei di vacanze ne ha fatte parecchie con l'autostop, mi sembra di capire. Sì, sì. Ma più che altro anche per lavoro. Io per lavoro giravo l'Italia, ecco. E sempre per un discorso economico, per il discorso principale era quello economico, c'erano pochi soldi. Ci si spostava, io con le mie colleghe. Ma poi il pernottamento avveniva negli ostelli della gioventù? Per lavoro, in Europa sì, mentre quando mi spostavo per lavoro avevamo gli alberghi già pagati. Comunque Mariella, lei ci mi aggiunge una fattispecie che non avevo contemplato all'inizio della mia presentazione: l'autostop, anche quello urbano. Molte persone, molte volte, per andare a fare il tragitto casa-lavoro o per spostarsi per brevi tragitti, usava fare l'autostop. Oggi non vedo persone che fermano macchine. Cos'è cambiato secondo voi? C'è un livello di paura, di attenzione più alta? Uno che ti fa segno di fermarti con la macchina potrebbe essere un malfattore, è qualcuno che ti vuole coinvolgere in chissà quale losca cosa, e quindi nessuno si fermerebbe mai, o perlomeno al contrario c'è anche timore oggi di fermare uno sconosciuto e montare in macchina con uno sconosciuto, timore che non c'era forse qualche anno fa. 800 24 00 24. Giuseppe. Salve, niente, volevo raccontare che anch'io ho chiesto l'autostop in estate, ma non per le vacanze, perché non ero bravo a scuola e spesso mi succedeva, insomma, di avere 3-4 materie da rimediare per l'estate, e andavo spesso nel paesino vicino, 12 km circa, appunto perché lì c'era qualcuno, insomma, che mi poteva dare una mano per l'estate. Niente, ricordo che mio padre mi dava i soldi per l'autobus, ma da buon ragazzaccio di 16-15 anni risparmiamo quei soldini. Ah, fermo Giuseppe, fermo. Un'altra, lei ha in questo momento rievocato dalla caligine dei ricordi lontani un'altra fattispecie. C'erano amici miei, mi confermerà lei, che si tenevano i soldi dell'abbonamento dell'autobus con cui ogni giorno dovevano fare dalla loro frazione al centro della città dove era la scuola. Tenevano i soldi per loro e andavano poi per mesi a scuola con l'autostop. È qualcosa di simile a quello che faceva lei? Sì, solo che lo facevo in estate, ripeto, perché dovevo recuperare, insomma, i debiti che avevo al liceo. E niente, in estate, insomma, da solo, soletto sotto il sole, aspettare a 40 gradi all'ombra che qualcuno si fermasse non era impresa facile, e comunque avevo degli orari da rispettare. Ricordo, insomma, che spesso ero col patema d'animo. Ricordo in particolare una volta che si è fermato un camion, un tir autoarticolato molto grande, ebbi timore, insomma, a salire, però poi, insomma, andò per il meglio. Sì, io ricordo che quando avevo 20 anni io ero abbastanza frequente, uno aveva fretta, doveva muoversi, si metteva sul bordo della strada e fermava una macchina, succedeva sempre che qualcuno ti accompagnasse. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno, molto lieto, piacere sentirla. Anche per me? Sì. Allora, cioè, no, volevo intervenire, diciamo, io do spesso autostop, perché mi capita di lavorare, insomma, guido spesso e volentieri. Come adesso, come in questo momento? Sì, sto sull'Appia in questo momento, sì. Diciamo, più che altro mi capita, ecco, l'estate, son giovani, 20 anni così, che devono attraversare Roma, magari, ecco, li lascio sull'Aurelia. Quindi ancora ci sono autostoppisti, persone che chiedono passaggi? Diciamo, prevalentemente io ne vedo francesi e tedeschi, che più che altro preferiscono fare quello che facevano i loro genitori. Ah, quindi stranieri, non italiani? Ma italiani non mi è mai capitato, no. Una volta ho una brutta esperienza, ho accompagnato uno scozzese che non si dava, penso, da 3 giorni, stava con tutto il kilt imbrattato, quindi... Cioè, ecco. Usava anche come indumento igienico, quindi, sarà imbrattato. Ma questo spero per lui di no, guardi, però, insomma, generalmente, ecco... Ecco, ma se l'autostoppista emana cattivo odore, lei cosa fa? Lo fa scendere, dice, lavati. No, lì il tratto era stato breve, perché dalla Nagnina l'ho lasciato sulla Roma-Napoli, quindi... Comunque, l'amico Marcello, che salutiamo perché c'è un rumore di fondo veramente forte, ma d'altronde sta guidando sull'Appia alla ricerca di autostoppisti, ci dice un'altra circostanza spiacevole: l'autostoppista puzza. Perché? Perché magari sono 4 giorni che è in giro per le strade e non sa dove lavarsi. L'autostoppista vero rifugge e ha in grande ripugnanza ogni luogo in cui ci si possa lavare, fare la doccia. Lui è perennemente sulle strade, naturalmente l'estate con il sudore, quando sale a bordo lascia delle tracce. Paolo, buongiorno. Buongiorno, salve, sono Paolo, chiamo da Senigallia, dalle Marche. Brevemente, la mia esperienza di autostop in Islanda, in Irlanda. Mi sente? Sì, benissimo. In Irlanda, anche ho preso quella del nord, si partiva sempre con il treno, io le parlo circa 20-30 anni fa, perché si partiva con l'Interrail e poi dopo alcune volte anche con la nave con l'Islanda e poi si tornava indietro in Islanda, il giro dell'Islanda in autostop. Ma che anni erano, Paolo? Che anni erano? Ma intorno agli anni 80. Gli anni 80, quindi lei negli anni 80 anche un po' prima. Ha fatto le vacanze, erano vacanze massacro o semplicemente vacanze oculate? L'autostop sostituiva i biglietti? Guardi, io per esempio in Islanda erano anche vacanze anche rilassanti, perché insomma la ricerca anche di ispirazioni tipo Viaggio al centro della terra, dove è partito Giulio Verne, dove si è ambientato, dove ha preso il vulcano quello islandese, oppure anche sulle tracce di Hermann Hesse in Svizzera. Ma anche la cosa carina, vabbè, lei aveva, ho capito, aveva delle motivazioni fortemente ancorate alla tradizione della letteratura di viaggio, letteratura ricerca di luoghi di ispirazione. I miei ricordi sono molto più banali, sono vacanze maledette in cui non c'erano soldi e si doveva comunque fare la vacanza, eravamo desiderosi di viaggiare, di vedere, di conoscere e si tagliava sul tagliabile. Su cosa si tagliava? Sui mezzi di trasporto e sul cibo, ahimè. Ricordate Vacanze Massacro, di cui l'autostop era il vettore principale? 800 24 0024. A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Tu sei solo sull'autostrada e la radio rimantiene il contatto col mondo civile. Interrompiamo il programma musicale per comunicare notizie sulla ricerca del mostro dell'autostrada, il pericoloso criminale che negli ultimi due mesi ha assassinato ben 12 persone. Le vittime sono tutte persone che transitavano che c'hai sull'occhio? Del sole. Noia. De chi? Oggi, come noia di vino. Le popolazioni della provincia non di Rosetto vivono nel terrore. C'hai pure uno squarcio. Sono andato sotto al tema. Conoscere il nome della nuova vittima. Comunque si invitano tutti i cittadini a dare informazioni e notizie la loro conoscenza alle autorità. Ammazza, cuori chi è che? Bisogna assolutamente fermare la mano del... Un calcio di cavallo. Prima che cada sulla tredicesima. Oh, io mi fermo, c'è qualcosa che non va. Riprendiamo ora il nostro programma musicale. Deve essere Gumba. 800 24 0024, quali sono le vostre avventure o disavventure da autostop? In questo caso Alberto Sordi, che senta la radio la storia del mostro della strada, un feroce assassino con alcuni segni caratteristici come uno sfregio in faccia. Lui ha caricato un povero zoticone, un villico che ha la voglia di vino in faccia, i segni della fatica campagnola in faccia, e lo fa scendere, ma ahimè poi salirà in macchina il vero mostro dell'autostrada, che naturalmente è del tutto impeccabile, perché ci si può sbagliare, ci si può confondere sulla persona che si carica in macchina e sulla persona nella cui macchina si sale. C'erano mille stratagemmi, ricordo, io ero il più pulitino di tutti nelle mie vacanze massacro in autostop, perché ero carino e di buona famiglia, quindi ero quello che sembrava più pulito degli altri, quindi i miei amici, che ormai erano ridotti a livello di zombie, stanno nascosti dietro un dosso e io faccio l'autostop come se fossi la fighetta del gruppo, e ogni tanto funzionava, ma molte altre volte non funzionava. Paolo, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Io invece feci a gara con mia sorella e una sua amica che arrivava prima, fosse arrivato prima a San Severo da Milano. Partimmo separati, io da solo e loro in coppia. Chi vinse? Vinsi io. E beh, loro erano due. No, vabbè, però io pensavo di perdere, sinceramente. Invece vinsi grazie a un napoletano. A lei con un colpo solo fece tutto il tragitto. No, abbiamo spezzato a Rimini e Rimini arrivarono prima loro. Poi da Rimini a San Severo mi montò questo napoletano baffone, che poi insomma scoprì che in effetti mi montò me per motivi, diciamo... Ah, voleva fargli il servizio? Insomma, ci provò in modo abbastanza Allora usò le stesse armi subdole della seduzione, lei, che usarono sua sorella e la mia. All'insaputa, io ovviamente non lo feci al posto. Ma lei diciamo, si piegò all'intima d'azione per arrivare primo? Ovviamente no. No, ovviamente, mica così scontato. No, vabbè, allora no. Magari no, un segreto che serba nella sua vita e non vuole raccontarlo alla radio. Ma tranquillo. Ma alla fine del viaggio. No, sì, ma tranquillo, può avere comunque una vita normale, non è che è un problema. Non lo metto in dubbio. Se le ha ceduto per vincere la sorella, l'orgoglio di sua sorella, pazienza, sarà stato un sacrificio che sarà valsa la pena. Resistetti. Ma non poi si preoccupi, ma se l'abbiamo avuta a San Severo, se la resistenza non fu abbastanza tenace, stia tranquillo, sarà lo stesso nostro amico, non discriminiamo. Bravo Paolo. Roberto. Sì, buongiorno. A lei cosa buongiorno. È successo? Anche lei è il camionista con i baffi, no. concupiscente. Ex autostoppista purtroppo, e volevo porre l'attenzione invece sulla sicurezza dell'autostoppista, perché preso dall'avventura di fare le vacanze con mia sorella di qualche anno più piccola, negli anni 80 questo, partimo per le vacanze in autostop. Ma vede, voi siete tutti fortunati, avete tutti sorelle da poter usare come facile esca per essere... Io avevo soltanto fratelli, quindi voi avete un punto in più chiaramente. Però è diventato poi un punto a sfavore, perché poi recandoci ad Albenga, allora in campeggio, tutte le sere la vita notturna si svolgeva ad Alassio, per cui si faceva da Albenga ad Alassio in autostop tutte le sere per andare a cercare la vita notturna. Ed una sera, tornando in campeggio da Alassio, si fermò una macchina con una persona a bordo targata tedesca, e perché si faceva attenzione anche da autostoppista a chi si poteva fermare, chi no, chi non. Ma qual era i criteri di, e diciamo, la targa tedesca era sicuro. L'immaginario era sì, era la targa di un personaggio, dava l'idea di un personaggio serio, di corretti, che rispettano le regole. Magari è un maniaco tedesco, ce ne sono tanti, potrebbe essere. Il problema è salito in macchina questa persona, partì subito di fretta, in una curva sfregò contro il guardrail, assolutamente, ci spaventammo. Un film dell'orrore. Chiesi per cortesia di fermarsi, gentilmente, noi guardi siamo arrivati, si fermi per cortesemente, e lui invece continuava ad accelerare e sorrideva faccia così. No, serio, non rispondeva, come se ci ignorasse. A quel punto dovette rallentare perché c'era la coda, durante le vacanze c'erano parecchie macchine. Vi siete buttati. Le chiesi ancora di fermarsi, non si fermò, e io piano piano tirai il freno a mano, piano piano, quando lui si fermò tirai il freno a mano fortissimo, scesi dalla macchina, e in quel momento lui cominciò a voler ripartire non riuscendo a sganciare il freno a mano. Aprì la porta a mia sorella e scendemmo E gli zaini sono rimasti in macchina o avete sceso anche gli zaini? No, eravamo per la serata, quindi erano in campeggio gli zaini. Ed è stata veramente una bruttissima avventura, nel momento in cui chiesi a questa persona di scendere e mi ignorò completamente. Continuò per la sua strada, seppur avendo sbattuto con la macchina contro... Beh, io secondo me lui aveva come destinazione un luogo ameno tipo hostel. Era pronto un tavolo anatomico, avrebbe legato lei e sua sorella, avrebbe fatto pezzi e mangiato pezzo per pezzo. Non lo vuoi mai. Legava lei a un albero e abusava di sua sorella, o viceversa, legava sua sorella a un albero e abusava di lei. Sarebbe finita male sicuramente, questo lo sa. Non ho mai voluto pensare, comunque... È un tedesco che non così. Risponde, rasenta i guadrail, è terribile. Ho immaginato più a una persona... No, confusa, forse ubriaco più che un maniaco, sinceramente. Forse voleva andarsi a schiantare con voi dentro, una sorta di non lo so. Comunque è stata è stata brutta, è stata. Sì, devo dire che abbiamo preso il treno per tornare a casa. Va bene, grazie. Giulio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è tanto che voglio telefonare che ogni volta vorrei chiamare e poi non riesco a prendere la linea. Lo fa adesso, usi il suo tempo. Fatto, esatto. Allora, io ho 70 anni e ho iniziato a fare l'autostop e a girare l'Europa con un amico negli anni 63-64, quegli anni. E le cose erano abbastanza semplici e tranquille. Unico inconveniente che trovammo una volta, fummo fatti salire da una persona che ogni 3-4 chilometri si fermava e diceva: scusate, devo fare acqua, e si fermava. E a un certo momento problemi di prostata, può succedere. No, era giovane, quindi non poteva essere questo. Ah, va detto, mi date una mano, queste cose qua tipiche. Chi lo sa, poteva essere. Fino a quando questo, capendo che noi sospettavamo qualcosa, disse, ragazzi, io sono cocainomane e devo farmi una siringa ogni tanto. La siringa ogni tanto, negli anni 60. E che c'era una valigetta di siringhe? Era di Milano e mi disse anche che lui era rifornito da una persona che riforniva vari nomi che ora evito di citare. Ma mi sembra un po' concettuoso che questo si fermi e si faccia l'indovena ogni chilometro. Probabilmente è vero che era così. Sì, vabbè, ma non è, adesso non vorrei azzardarmi in letture di cui non ho elementi tecnici, ma... Fatta una, uno si ferma e se la gode, ogni chilometro si ferma se ne fa un'altra, mi sembra strano. Comunque va bene, ci sta tutta la storia e le storie surreali e paradossali sono un po' come le storie dei pescatori, le storie degli autostoppisti, quindi le diamo tutte per buone. 800240024, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Mi piacerebbe sapere se ci sono persone meno attempate che ancora praticano l'autostop o l'hanno praticato perlomeno nell'ultimo decennio. Mi fa molto piacere assorbire e risvegliare memorie lontane di miei coetanei quando fare l'autostop era abbastanza frequente, ma il dato che mi manca, l'interesse che oggi ha mosso questa nostra scelta, è capire oggi chi fa l'autostop, quali sono i motivi per cui si fa oggi l'autostop e soprattutto quali sono i tipi di inconvenienti o di meravigliose sorprese che oggi possono capitare a un autostoppista. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo per l'autostop. Devo dire che abbiamo avuto, sia io che la mia amica, eravamo in due che facevamo autostop in Italia, all'estero, esperienze tutte positive. Fortunatamente abbiamo incontrato sempre gente molto disponibile, molto cordiale, che ci ha portato sempre a destinazione senza avere in cambio niente. E come vi presentavate voi? Niente, ci si presentava tranquillamente, guardi, noi dobbiamo andare lì, dobbiamo andare. No, presentavate, diciamo, qual era l'outfit, cioè come vi vestivate per fare autostop? Normalmente. Da giovani boy scout, diciamo, ecco. Da giovani normali, un abbigliamento molto, molto classico, senza esagerare in eccessi. Cioè con la borsetta Gucci, che vuol dire molto classico? No, normale, proprio comune, di gente comune. E avete dei grossi zaini? Quando siamo andati in Grecia e in Spagna, sì, avevamo la tenda perché noi viaggiavamo in Europa in tenda con la nostra tendina canadese, uno zaino. Ma chi toccava portare i paletti, che è la cosa più pesante? Ma guardi, erano talmente piccolini, li portava la mia amica perché io ero e sono minuta, per cui li portava la mia amica, io portavo semplicemente la mia tenda. E vabbè, è tutto il necessario che mi poteva servire per un mese di vacanza all'estero. Quanti anni avevate, Antonia? Guardi, avevamo intorno ai 22-23 anni, 24. Io sarei curioso di sapere se ci sono ancora ventenni che partono, due amiche con la tenda sulle spalle con l'autostop. Questa è una cosa che mi interessa. Nell'avventurosa gioventù della civilizzazione digitale ci sono ancora persone che partono in tenda, due ragazze per girare l'Europa. Yelena, buongiorno. Sì, buongiorno, anch'io sono quella dell'altro ieri, non di oggi. E io sono di origine di Belgrado, vivevo all'epoca lì, con un'amica ho girato l'Europa. Devo dire che in Italia si fermavano più facilmente, in Spagna era un disastro. E capitava però di partire... Guardi, ma lei in che anni c'è andata in Spagna? 82. Ah, ecco, no, vabbè, io ci sono andato molti anni prima, c'era ancora, diciamo, il periodo di Franco, in cui non montavano per principio autostoppisti. Se provavi a fermarti a bordo della strada, arrivava la Guardia Civile, subito ti in qualche maniera ti disturbava, non volevano, era considerato un elemento di disturbo durante il franchismo l'autostoppista. C'è un particolare rigore. Negli anni 80 probabilmente forse era più facile. Era un po', sì, però la gente magari era un po' diffidente così, mentre in Italia non si aspettava mai tanto. tanto e ci capitava di partire per Marocco e finire a Londra. Cioè sbagliavate corsia? No, se qualcuno ci offriva, ma io vado di lì, volete venire con me? Ci è capitato di, si è fermato un signore di Sanremo che viveva vicino a Cambridge, a un paese piccolo, si è fermato, ma dai venite con me. Cioè voi stavate a Sanremo con un cartello sopra Marrakesh? Senza cartello, perché era troppo presto per mettere i cartelli, comunque là... nazione era Spagna e Marocco. Fermavate, vai in Marocco, cioè no, vado a Cambridge, vabbè, saliamo lo stesso. Ma sì, era tanto, non è che ci aspettava nessuno in Marocco, allora abbiamo deciso, ma sì, perché no, e poi ci siamo fermati in Francia, in una cittadina piccola, perché c'era la partita finale dei mondiali di calcio nell'82 e lui ovviamente, essendo un italiano che vive in Inghilterra, si è fermato a vedere la partita anche noi con lui in la città. E anche lei è sempre andata bene, sempre amicizie, amori? Amori sempre. Nessun amore? Sì. No, cioè c'erano le persone un po'. Una volta in Spagna si sono fermati due e ci siamo fermati in un autogrill e quando siamo tornati loro avevano una borsa da donna che guardavano dentro, allora abbiamo capito subito che l'hanno rubato nel bagno e io ho cominciato a fingere di stare male e al prossimo autogrill siamo scese, non ci hanno detto niente. Diciamo che una delle tecniche per farsi scaricare velocemente quando uno comincia a sospettare è fingere di vomitare, cioè sto per vomitare, chiaramente quello si ferma e uno va via, scappa. Questa me la ricordo bene. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, ciao Nicoletti. Come tanti degli anni 70 anch'io ho usato molto l'autostop per andare al mare, però andavo a Passoscuro, Fregene, Ostia, gli autobus erano molto pochi, erano fortunati quelli che avevano il motorino, io con i miei amici andavamo sempre con l'autostop. Però volevo dire questa esperienza che invece mi è capitata qualche mese fa a Perugia, sulla E45 tornando, a un distributore stavo mettendo benzina, solo che non funzionava. Siamo riusciti a contattare il proprietario, era di domenica, e praticamente ci ha detto di aspettare lì e che sarebbe venuto a vedere un po'. Noi non avevamo molta benzina in macchina, quindi abbiamo aspettato. E c'erano due fraticelli che stavano lì e ci avevano chiesto l'autostop appena fermati, no? Però mia moglie era preoccupatissima, cioè no, guarda, lascia perdere, non li caricare. Manco nemmeno dei frati francescani. Ma sai, perché chi lo sa che erano frati, cioè erano vestiti così. Diciamo, io sono umbro, da quelle parti gira ancora la leggenda del frate Favarone, che è un elemento folcloristico. Sua moglie aveva qualche timore, però Sì, caricare sono anime candide. Lo so, però poi ci siamo accorti, perché abbiamo aspettato un 40 minuti lì. Che ma un super devozione prende e bacia sto cordone, è un detto perugino. Lo so, potrebbe succedere. E praticamente, insomma, è arrivato e noi stavamo lì che aspettavamo, avevamo visto la tranquillità di questi due frati, al che abbiamo pensato che erano effettivamente frati. E invece com'è finita? No, niente, l'abbiamo caricato in macchina da Perugia e siamo arrivati fino a... loro dovevano arrivare a Napoli. La mattina loro erano partiti da Napoli per andare a vedere un loro confratello. Sì, ma com'è finita? Che è successo sti frati? Niente, in macchina abbiamo parlato, sì. Ci hanno tranquillizzato. Sua moglie stava davanti o dietro con un frate davanti? Mia moglie stava davanti e loro due stavano dietro. E quindi? Tutti e due dietro, e com'è finita? Tutti e due dietro. No, ci hanno fatto passare un 40 minuti di piacevolezza. Allora, questo è un consiglio per l'estate. Volete passare, siete una coppia desiderosa di nuove esperienze, prendetevi due frati dietro e passerete piacevolmente una bella vacanza a Assisi Napoli. Grazie, alla prossima.